Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che ricorda una figura molto importante per il Pioniere, perché poco più di un anno fa, il 26 settembre dell'anno scorso, moriva Giulia Maffay, una figura che ha fatto una splendida carriera nel cinema, nella moda, ma anche nell'illustrazione, in particolare nel Pioniere, in quanto giovanissima venne chiamata alle armi della illustrazione dallo stesso Gianni Rodari e per lui, tra le altre cose, ne illustrò la prima storia di Cipollino, oltre ad un'altra serie di storie disegnate per il Pioniere. E allora recuperiamo una intervista inedita della Giulia per ricordare questo personaggio che abbiamo avuto la fortuna anche di conoscere e che anche da anziana più che novantenne aveva sempre una grande lucidità e capacità di analisi. Vai. Giulia Maffay, tu sei stata la prima illustratrice per Gianni Rodari, stiamo parlando di un libro che è uscito nel 1950, il libro delle filastrocche, dell'edizione del Pioniere, con una prefazione di Davide Laiolo. Che cosa ricordi di questo rapporto con Gianni Rodari e di questo primo libro? Sai, io ero proprio una ragazzina, avevo fatto il liceo artistico, poi ero riuscita a fare il concorso d'entrata al Centro Sperimentale di Cinematografia e erano i miei primi passi, avevo 20 anni, ti puoi immaginare. E Rodari mi offrì una collaborazione con il Pioniere e tutte le settimane avevo una striscia e insieme a lui avevamo inventato questo personaggio un po' imitato al babar francese e che era, se non mi ricordo, un elefantino, una cosa di questo genere. Poi Gianni, spinto anche da noi, da tutti gli amici che avevano capito benissimo la grandezza minimale di Gianni, di Rodari, perché lui avevamo spinto a pubblicare queste sue filastrocche. Il primo libro delle filastrocche, e Rodari fu così generoso da offrirmi la possibilità di farne le illustrazioni. Lavorare con Rodari non era lavorare, era un parlare fra di noi, fra amici, scambiarsi delle idee, ogni volta imparare qualcosa, perché la sua semplicità era molto profonda. Sai che non è facile essere semplice, è molto più facile essere barocchi, riempirsi di parole, riempirsi di concetti, riempirsi di idee. Invece la semplicità vuole essere essenziale e quindi quello che dici deve essere vero, perché l'inganno viene subito alla luce, capisci? Come un quadro molto semplice. Morandi, non puoi mettere una virgola di più, non puoi mettere una virgola di meno, perché è un equilibrio di perfezione nella sua falsa semplicità, perché non è una semplicità vera, non so se riesco a farmi capire, è una semplicità francescana, è una semplicità del togliere, non di aggiungere con la retorica, con le parole, di ubriacarti dei grandi concetti. No, la verità è molto semplice. Questo è anche il tuo tratto, comunque, direi, di illustratrice, la semplicità. Esattamente. E quindi, ma in questo libro che hai fatto insieme a Gianni, lui in qualche modo è intervenuto, ti ha lasciato completamente libera, tu così giovane, di esprimere davvero tutto ciò che volevi, non ha interferito? Rodari non interveniva mai, ti faceva capire gli errori con grande garbo, forse un po' di meno, forse un po' di più, che dici, aggiungeresti? Erano dei suggerimenti, lui correggeva dando dei suggerimenti. Imparerò a volare, imparerò. Partirai per Itaca, ti aspetto un lungo lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo un ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. Sul Pioniere tu hai fatto una storia a puntate. Una storia a puntate, il re dalle orecchie d'asino, che Paola Pallottino, che è una storica, illustratrice, che ha uscito quest'anno un bellissimo libro proprio sulle illustratrici donne, di te dice che in queste puntate del re dalle orecchie d'asino fa con tavole surreale, zeppe di immagini fiabesche e, continua, stilizzatissime. Questo dice del tuo lavoro sul Pioniere di quell'epoca. Stiamo parlando del 1951. Ringrazio te, ringrazio la Pallottino. E ti devo dire una cosa. Io ho avuto la grande fortuna, grandissima fortuna, di crescere in mezzo a delle persone di grandissima qualità. Di grandissima. Quando ero bambina, gli amici dei miei genitori, che si chiamavano Montale o Sbarbaro o Guttuso, e quando poi da ragazzo ho incominciato a lavorare, si chiamavano De Sica, Monicelli, Scola. Però vivere con queste persone non è vivere con l'etichetta, non è che sotto il loro viso c'è scritto sono un grande regista, o sono un grande poeta, o sono un grande scrittore. E Rodari, eravamo tutti insieme, più grandi di noi, quindi con la nostra maggiore esperienza, e poi con questa sua vena pedagogica straordinaria. Secondo me lui ha significato molto, proprio nell'educazione, ti direi, non credo di esagerare, di un'intera generazione, perché la sua moralità, che non è moralismo, stiamo attenti, oggi non si fa della morale per paura di fare del moralismo, no, tesoro mio, sono due cose molto diverse, come il sentimento è diverso dal sentimentalismo. E noi venivamo dalla nazione della guerra, quindi sapevamo tutto, avevamo patito la fame, avevamo avuto la paura, io a Genova più di 500 bombardamenti. I ragazzi di oggi per fortuna non hanno queste cose, e allora subentra il pedagogo che deve insegnare la grandezza di un Esopo, la grandezza di un Gianni Rodari, sono insuperabili. Quindi Gianni Rodari era un maestro, ed era un maestro che nei suoi racconti, tu dici, c'era anche un insegnamento, una morale che oggi tu vedi carente, insomma non c'è più questa morale della favola. Si diceva un tempo, la favola doveva aiutare alla formazione, all'educazione dei bambini e delle persone. Gianni Rodari in questo senso è stato un educatore. Ecco, quello che dici tu, insegnare. Se mio padre, che su Stai è stato un grande artista, un grande pittore, quando andava a comprare il giornale o a prendere il caffè, i camerieri, i garzoni, lo chiamavano maestro, maestro con la M maiuscola, buongiorno maestro, come sta? Perché nella vecchia a Roma i maestri erano i capi artigiani, quelli che sapevano, erano dei restauratori, erano dei corniciai, erano dei falegnami, ma sapevano, e quindi il titolo di maestro in una certa vecchia Roma era il massimo del titolo che potevi dare a una persona, quello che sa e che può insegnare. Del novecentismo rinnovano tutto va, e le usanze antiche e semplici so ricordi che svaniscono, e tu Roma mia senza nostalgia segui la modernità, fai la progressista, l'universalista, digi ok, thank you. Hello, yeah, yeah. Vecchia Roma, sotto la luna, non canti più. Ristornelli e serenate di gioventù. Il progresso t'ha fatto grande, ma questa città non è quella dove si viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo Tevere a rubarsi i baci a mille là sotto l'arberi, con i sogni sbocciati all'ombra d'un cielo blu. So ricordi tempo bello che non c'è più. Molle ragazzette con le volacchette, certo non le vedi più. E l'abiti scollati portano contro luce raspariscono. Nei caffè le senti senza complimenti, deboli di cavarla. E fanno ogni comizio e chiedono il divorzio, e mentre a casa se sta digiuna vecchia Roma sotto la luna non canti più. Gli stornelli, le serenate di gioventù. Progresso t'ha fatto grande, ma sta città non è quella dove si viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo Tevere a rubarsi baci a mille là sotto l'arberi, con i sogni sbocciati all'ombra del cielo blu. So ricordi del tempo bello che non c'è più. Dopo Gianni Rodari incontriamo invece Mario Lodi, altra decisiva personalità per il mondo della formazione e di istruzione scolastica. Già esiste un comitato per valorizzarne l'importanza. Sentiamo allora il presidente Francesco Tonucci, registrato in un incontro online avvenuto durante i mesi da Zona Rossa. Quando Mario morì, il presidente del Consiglio di allora lo definì un piccolo maestro che ha fatto grande la scuola italiana. Mi piacerebbe che ragionassimo insieme su perché e quanto Mario è stato invece un grande maestro e perché non ha potuto fare grande la scuola italiana. Vorrei limitarmi a tre citazioni, a tre affermazioni di Mario, che spero possano essere come tre piste. Una, ma nella sua forma originale, era un intervento che lui ha fatto al convegno di Alma-Ata in Unione Sovietica prima che cadesse il muro di Berlino nel 76. Inizia la sua relazione con queste parole: il bambino non è proprietà dei genitori, né della scuola né dello Stato. Quando nasce ha diritto alla felicità. Un vero manifesto dell'educazione, della libertà dei bambini, del loro diritto a sviluppare ciascuno le proprie attitudini e non le aspettative della famiglia, della scuola o della società, perché questo è l'unico cammino che conduce alla felicità. Il secondo è una testimonianza che lui ha dato in una delle ultime interviste rilasciate, raccontando il suo primo giorno di scuola a San Giovanni in Croce. E dice: fu il mio primo giorno di scuola a San Giovanni in Croce al principio degli anni 50. Mentre parlavo, uno dei bambini si alzò dal banco e andò a guardare cosa succedeva sui tetti di fronte. a poco anche gli altri fecero lo stesso. E allora mi domandai, lasciar fare o reprimere? Così mi alzai e insieme a loro mi misi a guardare il mondo dalla finestra. Questa frase mi sembra che possa essere considerata una sintesi delle scelte e del pensiero pedagogico di Mario. Lui sta con i bambini, dalla loro parte condivide le loro scelte sempre e insieme a loro si mette a guardare il mondo dalla finestra. Già quel primo giorno la scelta di fondo è fatta. Non reprime, non richiama all'ordine, ma si unisce ai bambini. E la finestra dell'aula è aperta, la sua scuola è aperta, interessata al mondo, e quindi da quell'aula si uscirà e in quell'aula entreranno i testimoni della vita vera, quella che si svolge fuori della scuola. Mario non avrebbe mai scelto come slogan «La scuola non si ferma» se il mondo si era fermato. Il terzo brano che vorrei citare è del 74, all'inizio del suo ultimo ciclo scolastico. E dopo una settimana di scuola della prima classe elementare, Mario scrive questa lettera ai genitori. Dopo una settimana passata con i bambini, posso affermare che essi sono tutti di normale intelligenza, pur rivelando evidenti differenziazioni di carattere e diversi livelli di maturazione, dovuti alle situazioni ambientali in cui ciascun bambino è cresciuto. Tutti i bambini, quindi, salvo imprevedibili fatti di eccezionale gravità, sono promossi sin da ora alla quinta elementare, con la garanzia del raggiungimento della preparazione minima richiesta dai programmi scolastici, e se questo non si verificherà, la responsabilità sarà del maestro e della scuola per non aver messo in atto le tecniche educative adatte per sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza del bambino. Dice chiaramente che lo scopo della scuola non è verificare che se i singoli alunni hanno raggiunto i livelli previsti, ma promuovere tutti, specialmente gli ultimi. E non perché sono bravi gli alunni, ma perché è brava la scuola, bravo il maestro a mettere in atto le tecniche educative adatte a sviluppare al massimo le attitudini naturali e l'intelligenza di ciascun bambino e di ciascuna bambina. E se questo può sembrare a qualcuno velleitario o paradossale, si tenga conto che la legge di più alto livello giuridico che abbiamo in Italia, dopo la Costituzione, e che l'hanno tutti i paesi del mondo, è la Convenzione dei diritti dell'infanzia, definita e approvata dalle Nazioni Unite 15 anni dopo della lettera di Mario che ho letto prima. E la Convenzione all'articolo 29 recita: gli Stati convengono che l'educazione del bambino deve avere come finalità favorire lo sviluppo della personalità del bambino, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini in tutta la loro potenzialità. E solo così la scuola potrà rispondere all'alto compito che le affida la nostra Costituzione, che, come già è stato detto, Mario amava tanto. Quell'articolo 3 che, dopo aver solennemente proclamato l'uguaglianza dei cittadini, prosegue affermando: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della personalità umana. La scuola pubblica è senz'altro uno degli strumenti più importanti per realizzare questo fondamentale obiettivo della democrazia. E Mario è stato maestro di questo. E dai bravi maestri rientriamo nel mondo del fumetto, anzi nel graphic novel, perché grazie a Monica di 42 è la risposta. Ascoltiamo le risposte di Davide Riviati, che è autore di una produzione Coccodino Press, che sono Morti di sonno e Sputa tre volte. Ascoltiamo. Ciao, sono Monica di 42 La Risposta dagli studi di Radio Città Fujiko. Siamo collegate telefonicamente con Davide Reviati, autore per Coccodino Press di Morti di sonno e Sputa tre volte. Ciao Davide e grazie per essere qui con noi. Ciao. Hai ambientato Morti di sonno nel villaggio Anic del petrolchimico di Ravenna, ma le storie che racconti potrebbero essere anche quelle dei ragazzi che vivono nel quartiere Tamburi di Taranto, il mostro che dà lavoro e chiede in cambio la vita. Quanta consapevolezza hanno di ciò i bambini che trascorrono la loro infanzia in questi luoghi? Per quanto riguarda la mia storia, io credo assolutamente nessuna, se non una coscienza, diciamo, animale in qualche modo, e non razionale, che quindi non è capace di così leggere le cose in maniera razionale, appunto. Però una consapevolezza animale credo che ci fosse, almeno in noi c'era. Credo che quello che ho cercato di raccontare i Morti di sonno sia anche questo. Anche se Morti di sonno e Sputa tre volte non sono autobiografici, i luoghi in cui sono ambientate le vicende da te narrate sono luoghi della tua infanzia. Come si torna da adulti a raccontare quanto si è visto da bambini? Dunque, io la memoria è un dato principe per me nel raccontare le storie che mi stanno a cuore, però raccontare i propri luoghi significa tornare in qualche modo a viverli, perlomeno un po' per come intendo io il raccontare. Io ho un modo di approcciarmi, diciamo, al lavoro non ortodosso, tendo a procedere per lampi, per associazioni, per assonanze, eccetera, e quindi spesso mi trovo a scrivere e disegnare nello stesso tempo. L'unico modo per riuscire a procedere in un modo del genere è quello di stare dentro la storia in una maniera empatica più fortemente possibile, in modo il più coinvolgente possibile, e questo significa tornare in qualche modo a vivere quei luoghi, quel tempo. Io devo dire che, non avendo mai traslocato, io vivo ancora al villaggio Anici e in qualche modo mi trovo oggi da adulto a rivivere quotidianamente gli stessi luoghi. Basta che io mi affaccio alla finestra e ho i luoghi dove ho visto accadere un sacco di cose, insomma, della mia infanzia, belle, brutte. Ne vivo anche il vuoto di questi luoghi, che è un vuoto anche di memoria. Ci sono eventi o cose che soprattutto i diretti interessati tendono a rimuovere, perché sono, per ragioni più che legittime, sono spesso dolorosi. Penso alle famiglie che hanno perso dei figli per droga, o hanno perso dei congiunti per situazioni sul lavoro, no? Io parlo dell'inquinamento e quindi della malattia, e quindi è come se io vivessi il fantasma di quel tempo, e insieme il fantasma di persone che sono state vive, sono state reali, e tornarci può essere doloroso e anche molto difficile, però è l'unico modo, secondo me, di, come dire, cercare di attenuare questo senso di vuoto e di malinconia. Quando parlo di malinconia, parlo di una malinconia cruda, non parlo di una malinconia romantica, certo. Che prende vivendo quotidianamente quegli stessi luoghi, ecco. Ed è per me una cosa dovuta, quella di mettermi al tavolino e provare a scrivere, a disegnare cose, che quelle cose là, insomma, che mi stavano molto a cuore e che ho cercato di raccontare nel modo più sincero per quanto possibile. Attraverso i rifiuti abbiamo trovato asilo su mondi separati, e per comunicarci il menù di domani possiamo solamente far segni con le mani e fare le boccacce di un linguaggio inventato che non emette suoni, emette solo fiato, con un po' di paura che un intellettuale capisca anche il silenzio e lo voglia svelare e ci tolga la voglia di non capire niente, vivendo come corpo anche la nostra mente, sapendo che comprendere vuol dire abbracciare, ma se l'abbraccio è morsa vuol dire strangolare, sapendo che la morte non è così lontana. Siamo noi che l'amiamo, no, non è lei che ci chiama, perché siamo i fantasmi del fantasma d'Europa che di carne. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Thank you.